34esima traccia. Mr. Weston, non scherzate con me. Considerate quante delle persone che mi sono più care si trovano ora a Brunswick Square. Di chi di loro si tratta? Vi esorto, in nome di tutto ciò che è sacro, di non tentare di nascondermelo. T'assicuro, in parola, Emma. La vostra parola. E perché non il vostro onore? Perché non assicurare sul vostro onore che la notizia non ha nulla a che fare con alcuno di loro? Santo cielo! A che notizia mi si deve dunque preparare che non si riferisca a uno della famiglia? Sul mio onore, disse egli molto seriamente, non si riferisce a loro. Non vi è in alcun modo connessa con alcuna persona dal nome di Knightley. Emma riprese coraggio e si rimise a camminare. Ho avuto torto, egli continuò, a usare la frase prepararvi alla notizia. Non avrei dovuto farlo. Di fatto la notizia non riguarda voi, riguarda solo me, almeno speriamo. In breve, mia cara Emma, non c'è ragione che vi preoccupiate. Non voglio dire che non sia una faccenda spiacevole, ma potrebbe essere anche peggio. Se camminiamo presto, saremo in breve a Randalls. Emma sentì che doveva aspettare, e ora non le costava un grande sforzo. Perciò non fece più domande, solo lasciò libero corso alla sua fantasia. E questa le suggerì ben presto la probabilità che si trattasse di qualche faccenda di denaro, qualcosa venuto improvvisamente alla luce di natura spiacevole nelle circostanze della famiglia, qualcosa che ciò che era di recente successo a Richmond aveva rivelato. La sua fantasia lavorava di lena, forse una mezza dozzina di figli naturali, e il povero Frank perdeva l'eredità. Questo, sebbene molto spiacevole, non l'avrebbe angustiata, non ispirava più di una viva curiosità. «Chi è quel signore a cavallo?» chiese Emma, mentre essi avanzavano, parlando più per aiutare Mr. Weston a mantenere il segreto che per altro fine. «Non lo so, uno degli Otway. Non è Frank, ve lo assicuro, non è Frank. Non lo vedrete, adesso sarà a mezza strada da Winston. Allora vostro figlio è stato da voi?» «Oh sì, non lo sapevate?» «Ebbene, non importa», tacque per un momento. Poi aggiunse, in tono molto più guardingo e volutamente dimesso. «Sì, Frank è venuto stamattina, giusto per chiedere come stavamo». S'affrettarono e in un momento furono a Randalls. «Ebbene, cara», egli disse mentre entravano nella stanza, «l'ho condotta con me e ora spero che presto ti sentirai meglio». Vi lascerò sole. Tardare non serve a nulla. Non sarò lontano se avete bisogno di me. Ed Emma lo sentì aggiungere distintamente, in tono più basso, prima che egli lasciasse la stanza. Ho tenuto parola, lei non se l'immagina neppure. Mrs. Weston aveva un aspetto così malandato e appariva così turbata che l'inquietudine di Emma crebbe. E appena furono sole, essa disse vivacemente: «Che c'è, mia cara amica? Qualcosa di molto spiacevole, vedo, è accaduto. Fatemi sapere subito di che si tratta. Sono rimasta col cuore sospeso per tutto questo tratto di strada. Noi due detestiamo entrambe l'incertezza. Non fate che la mia seguiti ancora. Vi farà bene parlare della vostra angoscia, di qualunque cosa possa trattarsi». «Davvero non hai idea?» disse Mrs. Weston con voce tremante. «Non puoi, mia cara Emma, non puoi indovinare la cosa che ti toccherà sentire?» «Che riguardi Mr. Francerci posso indovinare. Hai ragione, riguarda lui, e te lo dirò subito». Riprendendo il suo lavoro e sembrando risoluta a non alzare gli occhi, «è stato qui stamattina per una faccenda davvero straordinaria. È impossibile esprimere la nostra sorpresa. È venuto a parlare al padre su un tema, ad annunziare un attaccamento». Si fermò per prender fiato. Emma dapprima pensò a se stessa e poi a Harriet. «Più che un attaccamento, in verità», rispose Mrs. Weston, un fidanzamento vero e proprio. «Che cosa dirai, Emma? Che cosa diranno tutti quando si saprà che Frank Churchill e Miss Fairfax sono fidanzati, anzi che sono fidanzati da un pezzo? Emma sussultò dalla sorpresa e inorridita esclamò: «Jane Fairfax, Dio buono, non dite mica sul serio! Non volete mica dir proprio questo?» «Puoi ben rimanere stupita», rispose Mrs. Weston, sempre volgendo gli occhi e seguitando a parlare calorosamente perché Emma avesse tempo di rimettersi. «Puoi ben rimanere stupita, ma è proprio così. C'è tra loro un fidanzamento ufficiale fin dall'ottobre scorso, stretto a Weymouth, e tenuto segreto a tutti. Non ci sono altri a saperlo all'infuori di noi, né i Campbell, né la famiglia di lei, né quella di lui. È così stupefacente che, sebbene io ne sia perfettamente convinta, tuttavia la cosa pare ancora quasi incredibile a me stessa. Stento a prestarvi fede, credevo di conoscerlo». Emma udiva appena ciò che veniva detto. La sua mente era divisa tra due idee. La sua conversazione d'una volta con lui a proposito di Miss Fairfax e la povera Harriet, e per qualche tempo seppe solo mandare esclamazioni e chiedere conferma e ripetuta conferma. «Ebbene», disse alla fine cercando di rimettersi, «questo è un caso a cui debbo pensare perlomeno mezza giornata prima di poterlo capire. Come fidanzarsi con lei tutto l'inverno prima che l'uno o l'altra venissero a Highbury? Fidanzato dall'ottobre scorso, fidanzato in segreto. Mi ha ferito Emma moltissimo, ha ferito ugualmente suo padre. Una certa parte della sua condotta non la possiamo scusare». Emma rifletté un momento e poi rispose: «Non fingerò di non capirvi, e per darvi tutto quel sollievo che è in mio potere, state sicura che nessun effetto del tipo che voi temete ha seguito le sue attenzioni nei miei riguardi». Mrs. Weston alzò gli occhi, timorosa se credere a quanto sentiva, ma il volto di Emma mostrava la stessa fermezza delle sue parole. «Perché possiate provare meno difficoltà a credere questo mio vanto, della mia completa indifferenza presente», continuò Emma, «vi dirò ancora che c'è stato un periodo nella prima fase della nostra conoscenza in cui egli mi piaceva, in cui ero assai disposta a sentire un attaccamento per lui. Anzi, lo sentii addirittura. E come sia venuto a cessare, ciò è forse sorprendente. Per fortuna, tuttavia, è cessato. Realmente, da qualche tempo, almeno da 3 mesi a questa parte, non mi sono curata affatto di lui. Potete credermi, Mrs. Weston, questa è la semplice verità». Mrs. Weston la baciò con lacrime di gioia e, quando poté articolare parola, l'assicurò che questa protesta le aveva fatto più bene di qualunque altra cosa al mondo. «Mr. Weston sentirà quasi altrettanto sollievo di me», disse. «Di questo ci siamo fatti una croce. Era un desiderio che accarezzavamo tanto che voi due poteste legarvi uno all'altra, e ci eravamo persuasi che ciò fosse avvenuto. Immaginati che cosa ho provato pensando a te. Io sono scampata, e che io sia scampata può essere materia di grata meraviglia per voi e per me. Ma questo non assolve lui, Mrs. Weston, e debbo dire che egli è molto da biasimare. Che diritto aveva lui di venire tra noi con l'affetto e la fede impegnati, con modi così di persona libera? Che diritto aveva di cercarvi piacere, come è certamente piaciuto, di far segno di costanti attenzioni qualunque giovane donna, come certamente ha fatto, mentre in realtà egli apparteneva a un'altra? Non poteva sapere che male avrebbe potuto fare? Poteva garantire che non mi avrebbe fatto innamorare di lui? Ha avuto torto, assai torto davvero. Da qualcosa che ha detto, mia cara Emma, io immagino piuttosto... E come ha potuto lei tollerare un contegno simile? Impassibilità dinanzi a testimoni, guardare mentre ripetuti omaggi venivano offerti a un'altra donna sotto i suoi occhi e non risentirsene. Codesto è un grado di placidità che io non posso comprendere, né posso sentir rispetto per essa. C'erano malintesi tra loro, Emma, e gli ha detto così espressamente. Non ha avuto tempo di entrare in molti particolari. È stato qui soltanto un quarto d'ora e in uno stato d'agitazione che non ha permesso il pieno uso neanche del tempo in cui ha potuto rimanere, ma che ci fossero dei malintesi egli l'ha detto decisamente. La crisi presente, in vero, pareva che fosse stata causata da essi, e questi malintesi probabilmente saranno nati per la scorrettezza della sua condotta. Scorrettezza! Mrs. Weston è un biasimo troppo blando, molto, molto al di là della scorrettezza. L'ha fatto precipitare, non so dire quanto l'ha fatto precipitare nella mia opinione. Così diverso da come dovrebbe essere un uomo, neanche l'ombra di quella retta integrità, di quella stretta aderenza alla realtà e ai principi, di quel disprezzo per l'inganno e la meschinità che un uomo dovrebbe mostrare in ogni atto della sua vita. Via, cara Emma, ora io devo prendere le sue parti, poiché, sebbene egli abbia avuto torto in questo caso, lo conosco da abbastanza tempo per poter garantire che egli possiede molte, molte buone qualità. E Dio santo, esclamò Emma senza badarle, e anche Mrs. Smallridge, Jane addirittura sul punto di andare come governante. Che cosa poteva egli significare con codesta orribile indelicatezza? Tollerare che essa si impegnasse, tollerare che essa pur pensasse a una tal misura. Non ne sapeva nulla, Emma, su questo punto io sono in grado d'assolverlo completamente. Fu una decisione che lei prese per conto suo senza comunicargliela, o almeno senza comunicargliela in modo convincente. Fino a ieri so che egli era all'oscuro dei suoi progetti. Questi gli sono giunti all'improvviso, non so come, se non per mezzo di una lettera o di un messaggio. Ed è stata la scoperta di ciò che essa stava facendo, di questo suo progetto appunto, che l'ha deciso a farsi innanzi subito, a confessare tutto allo zio, a rimettersi alla sua bontà e in breve a por fine al misero stato di occultamento che aveva continuato così a lungo. Emma cominciò ad ascoltare meglio. «Presto avrò sue notizie», continuò Mrs. Weston. «Al momento d'andarsene mi ha detto che avrebbe scritto presto, e ha parlato in un modo che pareva promettermi molti particolari che in quel momento non potevano essere dati. Aspettiamo dunque questa lettera. Può essere che rechi qualche attenuante. Potrà rendere intelligibili e scusabili molte cose che ora non si capiscono. Non siamo severi, non ci affrettiamo a condannarlo. Abbiamo pazienza. Io devo volergli bene. Ed ora che ho chiarito un punto, l'unico che veramente importava, desidero sinceramente che tutto volga al meglio, e son pronta a sperare che sia così. Devono aver sofferto parecchio entrambi con tale sistema di segretezza e sotterfugio. Le sofferenze di lui, replicò Emma secca secca, non pare che gli abbiano fatto molto male. E Mr. Churchill come l'ha presa? In modo molto favorevole per suo nipote. Ha dato il suo consenso, quasi senza difficoltà. Pensa che cambiamento hanno fatto in quella famiglia gli avvenimenti di una settimana. Mentre viveva la povera Mrs. Churchill, immagino che non avrebbe potuto esserci neanche una speranza, una probabilità, una possibilità. Ma la sua spoglia riposa appena nella tomba di famiglia, che suo marito viene persuaso ad agire in modo esattamente opposto a quello che avrebbe richiesto lei. Che benedizione, quando un indebito influsso non sopravvive alla tomba. Non ci è voluto molto a persuaderlo a dare il suo consenso. Ah, pensò Emma, avrebbe fatto altrettanto per Harriet. La cosa fu sistemata ieri sera, e Frank si è mosso stamattina appena giorno. Si è fermato a Highbury dalle Bath per un po' di tempo, e poi è venuto via. Ma aveva tanta fretta di tornare dallo zio, a cui proprio ora è più necessario del solito, che, come ti ho detto, non ha potuto rimanere con noi che un quarto d'ora. Era molto agitato, proprio molto, a un grado da farlo apparire un essere del tutto diverso da come l'avevo visto prima. In aggiunta a tutto il resto, c'era stato il colpo di trovarla così ammalata, cosa che prima non sospettava affatto, e tutto lasciava credere che egli sentisse ciò profondamente. Credete davvero che la relazione sia stata portata innanzi con sì perfetta segretezza? I Campbell, i Dixon, nessuno sapeva nulla del fidanzamento? Emma non poté pronunziare il nome di Dixon senza arrossire un po'. Nessuno, neanche uno, Egli ha detto positivamente che a saperlo erano stati solo loro due. «Ebbene», disse M, «immagino che a poco ci abitueremo all'idea e auguro loro felicità. Ma non cessero mai di ritenerlo un modo di procedere abominevole. Che altro è stato, se non un tessuto di ipocrisia e di inganno, spionaggio e tradimento? Venir tra noi con professioni di franchezza e di semplicità e una tallega in segreto per giudicarci tutti. Eccoci qui, per tutto l'inverno e la primavera, completamente messi in mezzo, mentre ci immaginavamo tutti sullo stesso piano di verità ed onore, con due persone tra noi che si sono tenute informate, han fatto confronti e han giudicato di sentimenti e parole che non sarebbe intenzione alcuna che li udissero entrambe. Devono quindi accettare le conseguenze se han sentito sul proprio conto dir cose in modo non perfettamente gradito. Su questo punto sono assolutamente tranquilla, rispose Mrs. Weston. Io sono sicura di non aver detto cosa alcuna all'uno dei due intorno all'altro che entrambi non avessero potuto udire. Siete fortunata. Il vostro solo abbaglio non è andato oltre al mio orecchio, quando immaginaste un certo nostro amico innamorato della signora. È vero, ma siccome ho sempre avuto un'eccellente opinione di Miss Fairfax, non avrei mai potuto, per qualunque topica che io facessi, parlare male di lei. E quanto a parlare male di lui, non ci sarebbe stato pericolo per me. A questo punto apparve Mr. Weston, a poca distanza dalla finestra, evidentemente in attesa. Sua moglie gli fece cenno che l'invitava ad entrare, e mentre egli si avvicinava aggiunse: «Ora, mia cara Emma, lascia che io ti preghi di dire e di mostrare sul volto ogni cosa che possa tranquillizzarlo e farlo propendere a essere contento del matrimonio. Cerchiamo di trarne il miglior partito possibile. E in verità, onestamente, si può dire quasi ogni cosa in favore di lei. Non è d'una famiglia con la quale si possa andare fiero di imparentarsi, ma se Mr. Churchill non ci bada, perché dovremmo badarci noi? E può essere una circostanza molto fortunata per lui, per Fran, voglio dire, che egli si sia legato con una ragazza di tal fermezza di carattere e con la testa a posto, come l'ho sempre ritenuta e come sono ancora propensa a ritenerla, nonostante questa grande deviazione dalla stretta correttezza. E quanto può trovarvi nella situazione da giustificare il suo errore?» «Molto, in verità», esclamò Emma calorosamente. «Se una donna può mai venir scusata per pensare solo a se stessa, è in una situazione come quella di Jane Fairfax. Di tale persone uno può quasi dire che il mondo non è loro amico nella legge del mondo». Si fece incontro a Mr. Weston che entrava, con un volto sorridente, esclamando: «Avete giocato un bel tiro, in parola. Era un trucco, mi immagino, per scherzare con la mia curiosità e mettere alla prova la mia penetrazione. Ma mi avete spaventata davvero. Ho pensato che aveste perduto la metà del vostro patrimonio, perlomeno. Ed ecco che invece di essere in tema da condoglianze, si scopre che è uno da felicitazioni. Mi felicito con voi, Mr. Weston, di tutto cuore, per la prospettiva d'avere come nuora una delle più leggiadre e istruite giovani donne d'Inghilterra». Un'occhiata o due, scambiata con la moglie, lo convinse che tutto andava bene, come proclamava questo discorso. E immediato ne fu il felice effetto sul suo spirito. L'aria e la voce ripresero l'usuale vivacità. Egli le strinse la mano con cordialità e gratitudine e abbordò il soggetto in maniera da dimostrare che ora non abbisognava d'altro che di tempo e di persuasione per ritenere che quel fidanzamento non era una cosa cattiva. Le sue interlocutrici suggerirono soltanto ciò che poteva palliare l'imprudenza o appianare obiezioni. E quando ne ebbero finito di discorrere, ed egli ne ebbe discusso di nuovo con Emma, nella loro passeggiata di ritorno a Harfield, si era perfettamente adattata all'idea, e non era lungi dal pensare che fosse la miglior cosa possibile che Frank potesse aver fatto. Harriet, povera Harriet, queste erano le parole. In esse si condensavano le idee tormentose di cui Emma non riusciva a liberarsi e che per lei costituivano la reale pena di tutta questa faccenda. Frank Churchill si era comportato molto male nei riguardi di lei stessa, molto male per più di un verso, ma non era tanto la condotta di lui quanto la sua propria che la faceva tanto arrabbiare con lui. Era l'impiccio in cui egli l'aveva messa nei confronti di Harriet che dava la tinta più fosca al suo affronto. Povera Harriet, essere una seconda volta la vittima delle idee sbagliate e dell'adulazione di lei, Emma. Mr. Knightley aveva profetato il vero quando aveva detto una volta: «Emma, voi non siete stata un'amica per Harriet Smith». Essa temeva di non averle reso che dei cattivi servizi. È vero che non aveva da incolpare se stessa, in questo caso come nel precedente, d'essere l'autrice sola e iniziale del guaio, d'aver suggerito sentimenti che, in caso diverso, non sarebbero mai entrati nella fantasia di Harriet. Perché Harriet aveva confessato la sua ammirazione e la sua preferenza per Frank Churchill prima che essa le avesse pur fatto cenno in proposito. Ma Emma si sentiva completamente colpevole d'aver incoraggiato quel che avrebbe potuto reprimere. Avrebbe potuto impedire che Harriet si abbandonasse a quei sentimenti e li facesse crescere. La sua influenza sarebbe bastata, ed ora sentiva in coscienza che avrebbe dovuto impedirli. Sentiva d'aver messo a repentaglio la felicità della sua amica su fondamenti quanto mai insufficienti. Il buon senso avrebbe dovuto indurla a dire a Harriet che non doveva permettersi di pensare a lui e che c'erano 500 probabilità contro una che egli si curasse di lei. «Ma ho paura», essa aggiunse, «d'aver avuto ben poco a che fare col buon senso». Era estremamente adirata con se stessa. Se non avesse potuto essere adirata anche con Frank Churchill, sarebbe stato terribile. Quanto a Jane Fairfax, poteva almeno sgravarsi l'anima da ogni presente preoccupazione nei suoi riguardi. Sarebbe bastata l'ansia per Harriet. Non aveva più bisogno di sentirsi infelice per Jane, le cui pene e la cui cattiva salute, avendo naturalmente la stessa origine, dovevano essere ugualmente in via di guarigione. I suoi giorni di oscurità e di sventura erano finiti. Presto sarebbe stata bene e felice e prospera. Emma poteva immaginarsi ora perché così poco conto fosse stato fatto delle sue premure. Questa scoperta chiariva molti punti secondari. Senza dubbio c'era entrata di mezzo la gelosia. Agli occhi di Jane, essa era stata una rivale e ben poteva ricevere una ripulsa a qualunque offerta essa potesse aver fatto d'assistenza o di attenzione. Una boccata d'aria nella carrozza di Arfield sarebbe stata una tortura. La fecola d'amone dalla dispensa di Arfield sarebbe stata veleno. Ora capiva tutto. E per quanto la sua mente poteva liberarsi dall'ingiustizia e dall'egoismo di sentimenti di cruccio, essa riconosceva che Jane Fairfax non avrebbe avuto innalzamento o felicità al di sopra dei suoi meriti. Ma la povera Harriet era una preoccupazione molto assorbente. Emma poteva disporre di ben poca simpatia per altri. Essa temeva che questa seconda delusione sarebbe stata più grave della prima. Avrebbe dovuto esserlo, considerando che l'oggetto questa volta era così altolocato. E a giudicare dal suo effetto apparentemente più forte sull'animo di Harriet, fino al punto di provocare in lei riservatezza e dominio di sé, sarebbe stato proprio così. Essa doveva comunicare la penosa verità in ogni modo al più presto possibile. Una ingiunzione di segretezza era stata tra le parole di Mr. Weston al momento di separarsi. Per adesso la cosa doveva rimanere un segreto assoluto. Mr. Churchill aveva insistito, come segno di rispetto, per la moglie che aveva perduta da poco tempo, e ognuno conveniva che questo non era più del dovuto decoro. Emma aveva promesso, ma pure Harriet doveva venire eccettuata. Era suo dovere superiore. Malgrado la sua irritazione, Emma non poteva non sentire quel che aveva di quasi ridicolo il suo aver da compiere nei riguardi di Harriet quello stesso penoso e delicato ufficio che Mrs. Weston aveva finito di compiere nei suoi. La notizia che era stata così ansiosamente comunicata a lei, ora lei l'avrebbe ansiosamente data a un'altra. Il cuore si mise a batterle forte, udendo il passo e la voce di Harriet. A questo modo, essa supponeva, la povera Mrs. Weston doveva essersi sentita quando lei e Emma si avvicinava a Randalls. Oh, se anche il momento della rivelazione avesse potuto essere simile! Ma sfortunatamente questo non era affatto probabile. «Ebbene, Miss Woodhouse!» esclamò Harriet, entrando vivacemente nella camera. «Non è questa la notizia più strana che si sia mai sentita?» «Che notizia volete dire?» rispose Emma, incapace di indovinare dall'aria o dalla voce di Harriet se potesse davvero aver sentito qualcosa. «La notizia circa Jane Fairfax. Avete mai sentito nulla di così strano? Oh, non dovete aver paura di confessarmela, perché me l'ha data Mr. Weston in persona. L'ho incontrato orora. Mi ha detto che doveva essere un gran segreto, per cui non dovevo pensare di dirlo ad alcuno se non a voi, ma ha detto che voi lo sapevate». «Ma che vi ha detto Mr. Weston?» disse Emma, tuttora perplessa. «Oh, mi ha detto tutto, che Jane Fairfax e Mr. Frank Churchill si sposeranno, e che sono stati segretamente fidanzati tutto questo tempo. Com'è strano!» Era strano davvero. Il contegno di Harriet era così strano che Emma non sapeva raccapezzarcisi. Il suo carattere pareva assolutamente mutato. Sembrava che si proponesse di non mostrare ombra d'agitazione o di disappunto o di speciale ansia nella scoperta. Emma la guardò, incapace di articolare parola. «V'era mai passato per capo, esclamò Harriet, che egli fosse innamorato di lei? Forse a voi ciò può essere accaduto. Voi, e arrossiva nel dir questo, potete scrutare il cuore d'ognuno, ma nessun altro. Parola d'onore», disse Emma. «Io comincio a dubitare di possedere una simile virtù. Potete chiedermi sul serio, Harriet, se io mi immaginavo che egli avesse concepito un attaccamento per un'altra donna, proprio quando, tacitamente, se non apertamente, io vi incoraggiavo ad abbandonarvi ai vostri sentimenti? Io non ho avuto mai l'ombra d'un sospetto, fino a meno d'un'ora fa, che Mr. Churchill si curasse minimamente di Jane Fairfax. Potete star certa che se io l'avessi avuto, vi avrei messo in guardia in conseguenza». «Me?» esclamò Harriet, accendendosi in volto stupita. «Avreste messo in guardia me? Ma non penserete mica che io ami Mr. Frank Churchill?» «Sono lietissima di sentirvi parlare così risolutamente su questo tema», rispose sorridendo Emma. «Ma non intendete già di negare che c'è stato un tempo, e neanche molto lontano, quando mi deste motivo di credere che eravate innamorata di lui?»